Eccomi qua, bentrovate sorelle, a questa seconda parte delle Mistiche della Libertà, in cui parleremo di Edith Stein e di Simone Weil, due donne che vissero a cavallo delle due guerre, che dettero il meglio di sé a cavallo delle due guerre, che avevano molti punti di contatto sia a livello etnologico, etnografico che a livello spirituale. Prima di cominciare vorrei far notare questo, che se il filosofo è un teorico, la filosofa donna invece è una sperimentatrice multidisciplinare. È una donna che mette insieme diverse cose che ha sperimentato e le trasforma in una visione filosofica. Pensiamo a Maria Montessori, pensiamo a Rosa Luxemburg, pensiamo a Sabine Spierwein, Hildegarda di Bingen, Maria Gimbutas, Rihanna Eisler. Nessuna di loro si può definire solamente filosofa o solamente pedagoga o solamente economista o solamente scienziata o guaritrice o mistica. Tutte queste donne sono tutto questo tutte insieme. Perché le donne hanno questa facoltà di essere multidisciplinari, di mettere insieme varie discipline, varie esperienze e di trasformarle in un'unica visione che unisce mente e cuore, esperienza e intelletto, emozione e ragione. E quindi ognuna di queste donne, incluso quelle che studieremo questa sera, unisce diverse discipline per creare una sua propria visione filosofica. Pensiamo per esempio che Ipazia di Alessandria, si riteneva filosofa e sosteneva di essere filosofa intendendo la filosofia nel suo senso letterale del termine, ossia l'amore per la sapienza. Allora, Edith, figlia di Auguste, e Simone, figlia di Selma, entrambe ebree, entrambe si convertono al cristianesimo mistico. Entrambe prendono su di sé il sacrificio per l'umanità. Entrambe sperimentano il ritiro dal mondo e il distacco dai sensi e dall'importanza personale. Entrambe muoiono giovani. Nell'agosto del 42 Edith e nell'agosto del 43 Simone. Anche se erano nate a 20 anni di distanza, Simone morì giovanissima e morirono più o meno nello stesso periodo. Diciamo che il distacco dai sensi è qualcosa che dobbiamo valutare, che dobbiamo individuare bene, perché questo lavoro lo facciamo in parallelo con lo studio del il piacere sacro di Rihanna Eisler, che invece esalta i sensi come via per giungere al risveglio spirituale. Quindi troveremo insieme il modo per coniugare queste due visioni, queste due discipline, ossia l'utilizzo dei sensi come via per arrivare alla spiritualità o il distacco dai sensi invece come via per arrivare alla spiritualità e vedremo di coniugare le due cose. Quello su cui invece sono assolutamente d'accordo è il distacco dall'importanza personale, perché lì sì, si annida l'ego, che è quello che ci tiene agganciate alla terza dimensione, alla dimensione più pesante, no? Alla materia più densa. Allora, cominciamo con Edith Stein, che nacque alla fine del 1800, precisamente nel 1891, e morì a 51 anni, quindi relativamente giovane, per mano dei nazisti. Nacque a Breslavia, che all'epoca era tedesca, ma ora è polacca, quindi evidentemente la Polonia ha dato origine a tantissime grandi donne, se pensiamo che Rosa Luxemburg e Maria Sklodowska, da noi conosciuta come Marie Curie, erano entrambe polacche scappate, una in Germania e l'altra in Francia, per trovare dei parallelismi, no? Di Edith si può dire che fu una studiosa, che mai smise di studiare e di osservare se stessa come oggetto di studio, anche durante la clausura, cioè Edith fu sempre prima di tutto una filosofa, anche dopo che si fu convertita e fu diventata monaca, non perse mai di vista lo studio di se stessa, delle sue esperienze, delle sue emozioni, delle sue percezioni, perché prima di tutto lei fu sempre una scienziata, un'osservatrice e una filosofa. Per lei la filosofia era una sorta di scienza, non era solo una speculazione intellettuale, mentale, come spesso viene intesa. È di un'intelligenza straordinaria già da bambina, bravissima a scuola, la prima della classe, aiutava le compagne già da piccolina, ma soffriva molto quando i maestri o le maestre la lodavano perché aveva la sensazione che questo l'allontanasse dalle compagne, che creasse una relazione di difficoltà con le sue compagne. Il papà di Edith muore presto e la mamma, che è una donna di grande forza, di grandi risorse, ed era un'ebrea praticante, tutta la famiglia era ebrea. La mamma risolleva la famiglia dal fallimento, prende in mano la ditta di legname e dopo la morte del marito con 11 figli riesce a rilanciare l'attività e a farla funzionare. Quindi Edith è figlia di una donna estremamente pragmatica, forte, equilibrata, quadrata, se possiamo dire. La mamma è molto osservante. A Edith, da bambina e anche da ragazzina piaceva specialmente una festa che tutti gli altri ragazzini ebrei detestavano, lo Yom Kippur, che era il giorno dell'espiazione, dedicato al digiuno e al sacrificio per redimersi dai peccati. Quindi evidentemente lei già fin da piccolina sentiva l'attrazione, no? Per la purificazione, per la mortificazione del corpo, per la redenzione, poi neanche dei suoi peccati, perché lei non ne aveva, ma come vedremo più avanti, per la redenzione dei peccati dell'umanità. Che poi è esattamente il mandato cristiano della croce. A 14 anni legge Nietzsche, era molto precoce, quindi trova Nietzsche, lo legge e si sente attratta dal razionalismo e dal ragionamento logico. Quello che legge in quel libro le risuona e quindi lei annuncia alla madre che smetterà di pregare, pur continuando ad andare al tempio, alla sinagoga, smetterà di pregare perché nei libri che lei leggeva e che le risuonavano, si diceva che Dio non esiste. E quindi lei cominciò a maturare l'impressione che nel giudaismo, quello che veniva chiamato Dio fosse solo una serie di regole e di costumi, di costumi, di folklore, tra virgolette, sebbene ovviamente inteso in senso più sacro, che per lei, super intellettuale com'era, non avevano alcun senso. Quindi inizialmente si proclama atea. E si dedica solo alla logica. Studia le lettere, la psicologia, anche se quest'ultima non la convince perché le sembra che sia solo un sistema per incasellare e misurare la psiche delle persone. E poi viene in contatto con la filosofia. Legge Husserl, il padre della fenomenologia, e questo le risuona tantissimo. Lì trova la scienza e la logica che cerca, ossia l'origine dei fenomeni. Quindi cambia città per poter studiare con Husserl e diventa la sua assistente. In tutto questo la madre la sostiene sempre, le finanzia gli studi, le paga i pensionati dove stare, i pensionati per studentesse. Però Edith non è contenta perché essendo diventata l'assistente di Husserl non le rimane tempo per scrivere cose sue. Intanto continua a interrogarsi sulle questioni più profonde esistenziali. Lei, la sua esistenza, la sua giornata era fatta di 24 ore su 24 di auto-osservazione, un po' come facciamo noi, comunque niente di diverso. Ossia, la donna che vuole risvegliarsi deve prima studiare se stessa. Gnosi auton, diceva Socrate, no? Conosci te stesso o te stessa. Al femminile sarebbe gnosi eauté o eauti, in maniera che conoscendo se stesse si può conoscere ciò che è intorno, come risultato dell'emanazione di forme pensiero che escono da noi, ossia dei nostri pensieri. Durante la guerra fa la sua parte come Croce Rossina e anche lì riceve una medaglia di merito per la sua grande abnegazione. E ovunque vada, Edith si guadagna meriti e riconoscimenti perché ovunque va lei eccelle. Lei è sempre la più brillante, la più brava, oltre che ad essere molto bella anche. E devo ricordare che molte nostre venerabili antenate hanno avuto un cambio di visione spirituale dopo aver fatto le croci rossine, evidentemente in guerra, intendo, evidentemente è un'esperienza che segna, che ha segnato, che lascia un segno perenne. Pensiamo a Louisa May Alcott, pensiamo a Marie Curie, pensiamo a Florence Nightingale che creò praticamente la Croce Rossa dopo essere stata croce rossina durante la guerra. Nell'estate del 1921, cioè dopo 15 anni di professato ateismo, lei aveva 30 anni, una sera a casa di una sua compagna di studi, Lei trova l'autobiografia di Teresa de Avila e questo è un interessante parallelo perché noi Teresa de Avila l'abbiamo studiata molto bene, la creatrice dell'ordine delle Carmelitane Scalze. Se non ve la ricordate potete andare a riascoltarvi la classe che le abbiamo dedicato un paio di anni fa, mi sembra. Legge l'autobiografia tutta in una notte e ne rimane folgorata e decide di battezzarsi, quindi quella veramente la notte. La notte dell'oscurità, la notte del buio profondo dal quale lei si ridesta ad una nuova luce. Legge Il sonno dei sensi di Teresa e da lì prende ispirazione per questo suo nuovo cammino, nel quale, sperimenta il trascendere i sensi, ossia il non ascoltarli, non il negarli, ma il non ascoltarli, il trascenderli, perché è il cammino di molti mistici, anzi della maggior parte, mistici e mistiche. O, pensiamo per esempio a Matilde di Magdeburgo e ad altre mistiche come Santa Teresa di Lisieux, per esempio, che avevano, se vi ricordate, la classe che abbiamo fatto sull'erotismo mistico, che praticamente le loro pulsioni erotiche, le loro pulsioni sensuali le trasmutavano in una tensione spirituale verso Cristo, cioè Cristo diventava il loro amato, diventava il loro sposo, verso il quale loro sentivano vere e proprie, avevano de delle vere e proprie reazioni fisiche, io credo anche ormonali, ne abbiamo parlato, eventualmente andatevi a riascoltare anche quella classe che abbiamo fatto su Matilde di Magdeburgo e sull'erotismo mistico. Ora Edith riconosce Gesù come suo maestro. E mi piace fare un parallelo con Maifreda da Pirovano, la papessa, che si sentiva talmente in alto, talmente regina, Maifreda, che non poteva concepire di servire nessuno che fosse inferiore a un dio incarnato. E quindi trovò in Guglielma la dea da servire, perché Guglielma si riteneva fosse l'incarnazione della parte femminile divina, ossia dello Spirito Santo. E Maifreda, diventando la sua vicaria, ossia la papessa, l'unica entità che lei accettava di servire nel suo orgoglio intellettuale era nient'altro che una divinità. Queste donne così forti, così determinate, non trovano in un compagno terreno un uomo che possano considerare al proprio stesso livello. Neanche Edith, erano donne troppo intelligenti, troppo forti, che pretendevano troppo da se stesse, quindi da qualunque uomo normale incarnato restavano deluse, perciò si rivolgevano a un superuomo, cioè a un dio o al figlio di Dio. Perciò dovevano per forza sposarsi con Gesù, l'uomo Dio, no? Inoltre, Teresa d'Avila fu, se ricordate, una riformatrice molto pragmatica, molto concreta, fu anche una riformatrice politica e sociale. Il suo cammino non fu fatto solo di spiritualità, ma anche proprio di una parte politica e sociale. Lei attraverso la religione diede un nuovo orgoglio alla povertà, cioè fece diventare la povertà non qualcosa che si subisce, ma qualcosa che si sceglie per arrivare al risveglio, no? All'awakening, al risveglio totale spirituale e quindi la rinuncia a sé come scelta, il che ovviamente restituisce alla povertà una dignità come dire, una ricchezza nella povertà che prima non aveva. Essere poveri per scelta. E questo era congeniale alla natura di Edith, perché se vi ricordate abbiamo detto all'inizio che fin da ragazzina lei aiutava le compagne ma non voleva essere riconosciuta e amava digiunare e mortificare il corpo per espiare i peccati. Quindi il cammino di Teresa era sicuramente un cammino che a lei andava molto bene. Cosa succede? Che Teresa era cattolica e quindi lei decise di battezzarsi, Edith, e che era ebrea. Il prete che la interrogò per battezzarla, pur essendo uomo di grande cultura, ci sono i gabbiani qua fuori che li sentite, stanno salutando Edith e Teresa. Questo prete, pur essendo uomo di grande cultura, si dichiarò addirittura confuso dall'enorme conoscenza teologica di Edith, che in poco tempo si era impadronita di tutta la visione cristiana e cattolica, pur venendo da una tradizione completamente diversa. E questo ci fa pensare, sempre in temi di parallelismo, a Margherita Porete e alla sua grande cultura, la mistica della scorsa lezione, la mistica medievale autrice dello Specchio delle Anime Semplici, ed Elena Cornaro Piscopia, madrina della nostra Scuola delle Donne. Anche lei, ricordate, aveva chiesto di poter essere messa alla prova per una laurea in teologia e gliela negarono perché alle donne non era consentito. Andatevi ad ascoltare eventualmente il video nella playlist Le Grandi Donne su Elena Cornaro Piscopia. Allora, tornando a Edith, la cosa più difficile per lei fu dirlo a sua madre. Lei amava teneramente sua madre era un'ebrea praticante. Fino a quel momento abbiamo detto che la mamma l'aveva sempre sostenuta e finanziata, anche quando volle studiare filosofia, quando volle andarsene di casa, ma Auguste non accettò questa conversione, tra virgolette, della figlia. Lei si oppose con tutte le sue forze, che non erano poche, perché pensiamo che era una donna d'azienda, era una donna che aveva tirato su l'azienda dalla morte del marito con 11 figli, quindi era sicuramente tutt'altro che una persona malleabile. Auguste accusò la figlia di tradire il suo popolo e la considerò perduta. Tra virgolette, si creò tra loro una frattura insanabile. Edith, soffrì moltissimo per questo, ma la madre non la perdonò mai. Per prepararsi al battesimo, Edith si rifugiò per un anno, quindi prese la cosa molto sul serio e si rifugiò per un anno a casa della stessa amica, dove aveva trovato l'autobiografia di Teresa de Avila. Per un anno fece quasi una vita di clausura preparandosi a questo momento che per lei era molto importante perché lei ci arrivò con piena consapevolezza e piena volontà spirituale. Non fu neanche una scelta politica, fu proprio una scelta spirituale completa, come dire, una conversione repentina che avvenne provocata da Teresa de Avila. Intanto inizia a insegnare letteratura tedesca presso il liceo femminile domenicano del luogo dove si trovava. Aveva fatto domanda per l'università, ma come donna non le avevano dato, pur avendo pieni titoli, le donne non potevano insegnare all'università, quindi lei si limitò a insegnare in un liceo e insegnò per 8 anni. E iniziò a tradurre in tedesco le opere di Tommaso d'Aquino che le portarono via tantissimo tempo. Nel frattempo si dedicò completamente allo studio di Teresa de Avila e del suo misticismo pragmatico, perché questo era quello che lei voleva fare. Lei voleva servire, voleva imparare a lavorare con le mani, ad essere utile alla comunità, Edith, pur non avendolo mai fatto, perché veniva da una famiglia ricca dove lei non aveva mai cotto nemmeno un uovo, mai nemmeno tenuto in mano un ago, non era necessario, c'era servitù in casa sua, ma lei, come Teresa de Avila, anche Teresa di Avila, ricordate, anche lei era nobile, era della casata degli Ahumada, quindi era una donna, era un'aristocratica, eppure entrambe imparano a lavare il pavimento, entrambe imparano a pelare le patate, quasi proprio come se fosse un bisogno di utilizzare le mani e il lavoro manuale come mezzo per arrivare alla parte più profonda, più sublime del divino. E nel frattempo tiene conferenze sulle donne nel cattolicesimo. Edith andava in ritiro spirituale, le amava molto andare in ritiro spirituale nell'arciabbazia benedettina di Beuron sul Danubio e continua a purificarsi col digiuno, continua a sentire la necessità di purificarsi e questa è una cosa che la lega molto a Simone Weil, perché vedremo Simone Weil praticamente morì di stenti, si mortificò talmente tanto riguardo al cibo, anche se per motivazioni diverse, non per purificarsi, ma Simone lo faceva per se senso di solidarietà con la gente povera, con la gente che non poteva mangiare, e che morì addirittura di stenti, morì di tubercolosi, ma sappiamo che la tubercolosi era provocata da uno stato di mancanza di alimentazione, no? Invece Edith si purificava con il digiuno, quindi non morì di stenti, ma digiunò parecchio. E lasciò l'insegnamento e il liceo per poter completare la traduzione di Tommaso, per poter continuare nella tradizione di Tommaso, perché traduzione di Tommaso, perché in effetti la completò quando era già una monaca. Torna a casa nel frattempo a Breslavia, dove c'era la sua famiglia e dove c'era sua madre, e si ritrova calata in pieno nelle pratiche quotidiane ebraiche della casa di sua madre. Quindi lei ci prova, Edith, a tornare a casa, ma comprende di avere bisogno di pace e di silenzio per poter continuare a lavorare alla traduzione di Tommaso. Quindi da lì le viene in mente il monastero, proprio per potersi ritirare completamente fuori dal mondo. A quel punto diviene docente di pedagogia per gli insegnanti, però non per gli allievi, all'Università di Münster. Partecipa a convegni internazionali come esperta di fenomenologia, essendo stata assistente di Husserl, e lei è sempre l'unica donna, sia ai convegni che alle conferenze. Ma e quindi capite che è all'apice di una brillante carriera come conferenziera, come studiosa, come insegnante, come docente anche all'università, sebbene docente per gli insegnanti. Ma lei, anziché considerarsi all'apice di una carriera e di un successo che è più che meritevole, cerca invece, sente la necessità di una vita lontana dalla mondanità, una vita di contemplazione, una vita interiore, esattamente come Teresa de Avila. E quindi non si sente appagata dal successo come insegnante, come conferenziera, vuole di più. Ma vuole di più non nel mondo, vuole di più fuori dal mondo, vuole di più per sé, la sua anima ha sete, ha una sete inestinguibile, che è la stessa sete di Simone, che vedremo più tardi. Nel frattempo comincia la politica razziale di Hitler, al momento in Germania, poi ovviamente sappiamo che andrà anche fuori. Quindi tutti i non ariani, compresa lei, quindi che era ebrea, devono essere espulsi dai pubblici incarichi, quindi lei perde il lavoro di insegnante. E questo però le permette, poiché tutti gli ebrei in questo modo venivano ad essere colpiti, le permette di così sperimentare questo suo desiderio di empatia, di prendere su di sé la sofferenza del suo popolo. Lei soffre con il suo popolo in quanto ebrea, non cerca di nascondersi, non cerca nemmeno di scappare, per esempio in America, dove tutto questo non esisteva, o in qualunque altro luogo dove avrebbe potuto continuare la sua carriera. Quindi il fatto che lei si era convertita al cristianesimo non le consente sconti, perché comunque sui suoi documenti risulta che lei è ebrea, e neanche lei ne vorrebbe, lei ne vuole di sconti. Lei vuole camminare fino alla fine il cammino che comincia a delinearsi proprio quello del martirio. E comincia lei a pensare seriamente di entrare al Carmelo di Colonia. Il Carmelo è l'istituzione, sono i monasteri creati praticamente da Teresa de Avila, dal nome Carmel, che era il monte di Gesù, alla cui croce si ispirava tanto il cammino di Teresa de Avila, e si ispirò poi anche il cammino di Edith Stein. Quindi entra al Carmelo di Colonia, che è la città dove vive in quel momento, riesce ad essere ammessa come novizia e finalmente pensa di aver trovato il luogo di silenzio, di raccoglimento, di solitudine dove pregare per il suo popolo. E viene accettata, nonostante abbia ormai più di 40 anni e non abbia beni da donare al monastero, perché la madre praticamente chiude il portafoglio, non le dà più un soldo nel momento in cui lei decide di convertirsi e lo annuncia a casa. Quindi lei va a dare l'addio alla famiglia. E prima di accomiatarsi dalla madre, le chiede di raccontarle la storia della sua famiglia ebrea, che poi confluirà nel suo libro, dal titolo appunto Storia di una famiglia ebrea. Quando annuncia a casa che si sarebbe fatta monaca carmelitana, seconda tragedia da parte della madre e da parte della famiglia. Ma la famiglia crede che questo avvenga perché lei aveva perso il lavoro in quanto ebrea, e quindi i fratelli, sorelle si offrono di ospitarle, di aiutarle economicamente. Quando invece scoprono che lei non lo fa per questioni lavorative, ma che lo fa davvero per vocazione, le voltano definitivamente le spalle. Quindi lei parte per Colonia ed entra in un noviziato per 6 mesi e va avanti, e così avanti negli anni, incapace di sbrigare qualunque lavoro manuale, qualunque faccenda domestica. Lei, che era stata intellettuale, insegnante, conferenziera, donna brillante di mente, viene messa a pari nei lavori, nella bassa manovalanza, diciamo, con giovinette ignoranti. perché le ragazzine entravano in monastero giovanissime, venivano mandate dalle famiglie per lo più. Quindi, come dicevo prima, inizia a pelare le patate, inizia a lavare i pavimenti, inizia a fare lavori umili esattamente come Teresa. Però lei vuole servire e quindi questa condizione di serva non le pesa, lei trova anzi che sia un onore servire. In questo servire, in questo servizio al Carmelo, lei trova il riscatto di ciò che il nazismo ha tolto al suo popolo, cioè lei serve la croce, come riscatto per tutto ciò che gli ebrei stanno perdendo a causa del nazismo. È come se volesse in qualche modo pareggiare i conti, offrire, come dicevamo, se stessa in olocausto, tanto per usare una parola in risonanza, offrire se stessa in sacrificio per riscattare il suo popolo. Lì impara a cucire, impara a fare tutti i lavori umili, le suore cuciono delle piccole bamboline per venderle, per ricavare dei soldi, per mantenere il Carmelo. Fisicamente sta bene, mangia, dorme, perché la clausura è il suo ambiente ideale. Lei trova veramente il sistema di vita che le piace, che le dà, che le risuona, che la nutre. E si comporta da sorella maggiore con le altre novizie che la considerano, le danno molto ascolto, lei le accudisce, le consola e mette a frutto con le monache malate la sua esperienza di Croce Rossina, perché tutto quello che lei ha fatto viene registrato nella sua brillantissima mente, mai niente viene buttato, quindi lei si occupa di tutto e volentieri pur di poter servire, pur di poter essere serva dell'umanità. E sosteneva che è compito naturale della donna, il primo compito naturale della donna, amare senza aspettarsi qualcosa in cambio. Questa è una cosa che mi risuona tantissimo perché in qualche modo è in linea con il discorso dell'economia del dono, l'economia femminina, cioè lavorare senza aspettarsi del denaro, lavorare per il piacere di offrire i propri talenti alla comunità senza aspettarsi qualcosa in cambio, tanto meno denaro. Quindi, ovviamente, poi Edith da un certo punto in poi non veniva pagata perché era come insegnante, sì, ma come monaca no di certo, eppure continuava a lavorare. Lì diventa Suor Teresa Benedetta della Croce. La croce, proprio come Teresa de Avila, è ciò che la ispira. La croce è intesa proprio come accogliere e prendere su di sé la sofferenza del mondo, quindi sviluppare questa sorta di empatia sacra, no? Entrare in uno stato di risonanza con le sofferenze dell'umanità e sublimarle, non le sue sofferenze personali, ma quelle di tutta l'umanità. Un po' il concetto dell'agnello che togli i peccati del mondo, no? L'agnello sacrificale, o prima ancora del cristianesimo, era il capro espiatorio nella cultura pagana, no? Si prendeva un animale e lo si sgozzava, facendo in modo che su questo animale, che erano stati posti tutti i peccati della comunità, attraverso l'uscita del sangue dalla sua gola, questo è il senso proprio del capro espiatorio, il popolo, la comunità venisse lavata. Edith fa un lavoro su di sé enorme, a cominciare dalla rinuncia ad essere una brillante ed elogiata filosofa, perché ricordiamo che lei era all'apice della sua carriera quando decide di entrare nel Carmelo e lei decide di diventare umile e piccola. Anche perché l'ordine delle carmelitane non è per nulla un ordine intellettuale, come poteva essere per esempio quello di Hildegarda di Bingen, che apparteneva, anche se poi Hildegarda creò un suo ordine personale, ma lei veniva dall'ordine benedettino e quindi i benedettini erano degli alchimisti, erano degli studiosi, mentre Teresa de Avila e il suo ordine era proprio un ordine di lavoro manuale, di mettersi a servizio della comunità. È totalmente pragmatico, quindi in questo modo Edith vuole rinunciare a se stessa e qui proprio vediamo questa ricerca della sofferenza come modo per arrivare al risveglio spirituale. E guardate che anche in molte tradizioni pagane questa è una via che viene utilizzata. Pensiamo per esempio ai riti Lakota della danza del sole, quando si fanno trafiggere con gli aghi di porcospino sotto le ascelle, si fanno appendere all'albero, si fanno issare sul, sul palo e poi strappano facendo danzando fino allo sfinimento senza mangiare, senza bere per giorni per arrivare a vedere, a uscire dal corpo, ad annullare il peso del corpo e ad unirsi con il grande spirito. Quindi la sofferenza corporea come mezzo per arrivare, come mezzo per trascendere, non è semplicemente un martirio per il gusto della sofferenza, ma è l'andare oltre la sofferenza fisica per sublimarla e quindi per arrivare a un modo di non sentirla più. Ecco. Dunque, torniamo a Edith. Dopo qualche tempo che era in convento, il padre provinciale la dispensa dai lavori quotidiani, e le dà, ordine di proseguire la traduzione di Tommaso d'Aquino, che nel frattempo, perché, Tommaso d'Aquino scrisse una montagna di roba, e quindi richiese moltissimi anni di lavoro, lo traduceva in tedesco, ricordiamo. E di proseguire anche con i suoi personali studi e scritti sia filosofici che teologici. Quindi Edith capisce che è questo che si vuole da lei, non il lavoro manuale, ma il lavoro intellettuale. Però, essendo stato dato mandato a lei dal padre provinciale, lo interpreta come un ordine, come un ordine, e siccome vuole servire, si adatta di buon grado ad obbedire, perché quello che lei di più vuole in assoluto è essere utile alla comunità, essere utile alle suore, essere utile all'umanità. Quindi capisce anche che la pace e il silenzio del Carmelo, di Colonia, le sono stati dati. Lei ha potuto entrare in questa situazione di pace e raccoglimento per poter continuare a studiare e a scrivere, soprattutto lontana dagli orrori del Reich di cui intanto si sta parlando. Lei era dentro in una bolla, era isolata dentro nel Carmelo per il momento, anche se poi vedremo che purtroppo non sarà per sempre. Lei sa infatti che andranno ad arrestarla prima o poi ed è angosciata per la sua famiglia, per il suo popolo, però intanto al momento si trova in un luogo dal quale può continuare la sua opera, che è la cosa più importante per lei. Poi nel 1938 viene scoperta la sua identità perché alle suore viene richiesto di votare, anche se erano di clausura, i militari andarono dentro nel Carmelo, dando la possibilità alle suore di votare senza uscire dal Carmelo, e vedendo i documenti si accorgono che lei era ebrea. Mi sembra che nel frattempo fosse stata anche raggiunta dalla sorella, che era entrata come terziaria, e quindi lei, per non dare problemi alle sue sorelle del Carmelo di Colonia, decide di fuggire da Colonia e di entrare nel Carmelo di Echt in Olanda. E questo lo conosciamo per le famose canzoni, quella bellissima canzone riproposta da Giuni Russo. Ve la ricordate? A Echt c'erano, nel Carmelo di Echt c'erano 13 monache tedesche che erano fuggite dalla Germania a seguito della politica anticattolica del cancelliere Bismarck. E questo ci fa pensare il De Garda. Ricordate che erano 13 le monache con cui il De Garda scappa dall'abbazia di Disibodenberg per andare a fondare Bingen. Mi sembra che fossero 13, comunque non vorrei sbagliare, ma mi sembra proprio di sì. Infine, l'anno dopo, la Germania invade la Polonia e scoppia la Seconda Guerra Mondiale. E mentre l'Europa è nel caos, Edith scrive la biografia di Giovanni della Croce, che fu un collaboratore di Teresa de Avila, fondatore dei Carmelitani maschi, i Carmelitani scalzi maschi, e anche lui, anche Giovanni, è ispirato al discorso della croce proprio come sacrificio di sé. Questo è l'ultimo lavoro di Edith, la biografia di Giovanni della Croce. A Echt può studiare, e scrivendo la biografia di Giovanni della Croce, può finalmente studiare il simbolo che lei cerca di incarnare con il suo corpo, sia la croce come mezzo di elevazione, di abbandono dell'identificazione con il corpo. Ecco, questo è proprio quello che lei cercava a proposito dei sensi, no? Di come trascendere i sensi, ossia il distaccarsi dall'identificazione con il corpo. Questo è il punto nodale. A questo punto Edith cerca di scappare in Svizzera perché viene scoperta anche a Echt, ma viene scoperta, ma la Gestapo l'arresta lo stesso perché i documenti per la Svizzera non arrivano in tempo, quindi viene caricata sul treno per Auschwitz. E questo, ricordate il brano Dove sarà Edith Stein? Perché quando arrivò ad Auschwitz aveva 51 anni, quindi era considerata vecchia per lavorare, quindi fu mandata subito alle docce e morì. E non si sa dove sia finito il suo corpo. Questo per quanto riguarda la sua vita. La questione femminile l'appassionò sempre tanto. Lei da giovane entrò a far parte dell'Associazione Prussiana per il diritto femminile al voto, quindi fu sempre comunque attenta, anche poi come cristiana e come monaca, ai diritti delle donne. Non perse mai di vista il problema della condizione femminile. E il ciclo di conferenze sulla donna che tenne rappresentano la sua risposta ai movimenti femministi, la sua visione, il suo modo di interpretare il femminismo alla luce della femminilità. Lei, Edith, è una suora paradossalmente chiamata a parlare sul femminismo e sui diritti delle donne perché la chiamavano, la cercavano. Ricordiamoci che lei, prima di essere una suora, fu atea per 15 anni dichiaratamente e femminista, militante. Però, una volta abbracciato il cristianesimo, sostiene, queste sono parole sue, che la specie femminile significa unità, cioè il genere femminile, lei usa la parola specie, ma io credo che intendesse il genere, porta all'unità, cioè, attenzione a queste parole, la chiusura dell'intera personalità corporeo-spirituale, ossia chiusura nel senso di non più divisione tra personalità corporea e personalità spirituale, la chiusura del cerchio, il creare un unico nucleo, un unico essere vivente di corpo e spirito, uno sviluppo armonico delle potenze. Quindi questa non è l'attitudine di una persona che cerca la sofferenza per soffrire, ma cerca la sofferenza per staccarsi dall'identificazione con il corpo. Quindi è più vicino alla ricerca, la coda della danza del sole, alle trafitture, no? O all'andare in trance. Per esempio, molte popolazioni native usano il digiuno per andare in trance, perché in questo modo, o il danzare fino allo sfinimento, in questo modo perdono la pesantezza, perdono la coscienza del corpo e riescono a mettersi con il punto di coscienza completamente nello spirito. Lei dice: nessuna donna è solo donna. Cioè, la donna non è uno stereotipo e basta. Ogni donna è un essere umano, quindi con le sue inclinazioni, i suoi talenti naturali, esattamente come gli uomini. E lei dice che questi talenti la rendono adatta alle varie professioni, che siano di carattere artistico, scientifico, tecnico. Ma lei ribadisce che è necessario che questi compiti siano confacenti alle caratteristiche della femminilità, ossia che non siano troppo pesanti, per esempio fisicamente, o troppo brutali, perché comunque la donna non ha la forza, la resistenza e la brutalità, la forza fisica, diciamo, brutale dell'uomo, quindi bisogna ricordare questo. A me in questo momento viene in mente Anna Valentinovic, la fondatrice di Solidarnosc, che faceva la gruista nei cantieri di Danzica, non so perché mi viene in mente questo, che evidentemente ci voleva un bel po' di forza, ma probabilmente Anna Valentinovic non aveva una visione spirituale, aveva solo una visione politica molto forte, molto pragmatica. Ecco, Edith teorizza l'empatia, cioè l'empatia proprio come cammino spirituale, l'empatia, l'entrare in risonanza con la sofferenza altrui e prenderla sulla propria pelle, che non è la compassione, l'empatia è diversa, è proprio più un'attitudine di frequenza, di risonanza con le frequenze, che non la compassione, che dà più l'impressione di un atteggiamento religioso. E anche Simone Weil fece questo, cioè visse la sofferenza sulla sua pelle e utilizzò l'empatia come una sorta di cammino spirituale. Ed è l'empatia che spinge entrambe a volersi coscientemente far carico delle sofferenze altrui, perché non trovano un altro mezzo per poter mettere a disposizione il loro corpo se non quello di caricarlo delle sofferenze altrui, come proprio fossero capri espiatori, esattamente nello stesso senso del capro espiatorio della cultura pagana. Ecco, l'empatia, mi viene da dire, ha a che fare proprio con il campo quantico, l'entanglement, cioè il fatto che se accanto a me c'è una persona che soffre, io non posso stare bene perché entro in risonanza con la sua sofferenza, quello che in termini quantici, diciamo, viene chiamato entanglement. E poi parla di empatia come affettività della donna e apertura verso l'esperienza mistica, queste sono parole sue. E lei dice che la maternità è il veicolo che la donna ha per sviluppare la sua affettività, la sua empatia, anche per le donne che non hanno figli. Cioè, e questo sono assolutamente d'accordo, la maternità non è soltanto partorire, ma la maternità è un'attitudine, è quando una donna si sente in qualche modo responsabile di tutti gli esseri con i quali viene in contatto. È una condizione spirituale della donna, non un fatto biologico, questo sostiene lei e mi trova perfettamente d'accordo. E dice lei che l'empatia insegna a pensare con il cuore. Ecco, Papa Wojtyła la dichiarò patrona d'Europa. Quindi Edith Stein, Suor Benedetta, Teresa Benedetta della Croce, patrona d'Europa. E passiamo ora a Simone Weil, che è una figura ancora più, se possibile, complessa, sfaccettata, controversa di Edith, anche perché visse meno anni, ossia nacque nel 1909, il che significa che Edith aveva 18 anni quando nacque Simone, e però morirono in parallelo, cioè a distanza una dall'altra. Questo perché Simone morì a 34 anni, sfinita dalle privazioni che si autoimponeva. Ma nel frattempo aveva prodotto tantissimo materiale filosofico, mistico, sociologico, politico, economico, cioè una mente veramente brillante, geniale. Mi viene in mente un dettaglio che dicevano che fosse una bella ragazza, la sua famiglia era orgogliosa, il papà era ebreo, quindi anche lei aveva queste origini ebree, come Edith. E lei, anziché essere orgogliosa della sua bellezza o metterla in risalto, come facevano le ragazze a quell'epoca, cercava di vestirsi da maschio, cercava di essere, non si truccava, si metteva gli occhiali, teneva i capelli calati sulla faccia, ossia cercava proprio di imbruttirsi per fare in modo che non venisse minimamente considerato il suo aspetto fisico, ma che venisse, considerata soltanto la sua mente, peraltro brillantissima. E frequentò l'École Normale a Parigi, ma poi decise di andare, piantò lì tutto e decise di andare a lavorare in catena di montaggio alla Renault. E poi andò a lavorare come contadina, e poi come insegnante in un liceo di provincia, e poi come volontaria nella guerra di Spagna. Questo perché lei voleva sperimentare, cioè non voleva limitarsi a conoscere così su basi letterarie, ma voleva sperimentare fisicamente tutte le possibilità di vita, specialmente della gente semplice, della gente povera, come quelli che lavoravano in fabbrica o i contadini, perché voleva sapere di persona, sperimentare di persona, sviluppando così quella famosa empatia di cui abbiamo parlato poc'anzi anche con Edith Stein. E anche lei, come Edith, voleva scontare sul suo corpo le ingiustizie del mondo. Quindi anche per lei, pur non essendosi lei mai professata comunque o schierata in qualche tipo di religione, ma anche per lei la croce è il simbolo per eccellenza, simbolo di unione degli opposti, però, attraverso il punto di congiunzione dei due bracci, di unione degli opposti, quindi empatia totale, ossia tutto quanto riportato ad un unico sentire, a un sentire universale. Questo è l'empatia. Quindi lei stessa, per empatia con tutte e tutti coloro che soffrivano la fame, decise di limitarsi nel mangiare solo a quanto era permesso con la tessera di razionamento. E infatti morì di tubercolosi, ovvero di sfinimento, di mancanza completamente di alimento, di cure personali. Non voleva essere toccata, non voleva essere abbracciata, non voleva essere avvicinata, aveva terrore del contatto fisico. Questo a proposito della questione dei sensi, no? Che stiamo che stiamo indagando, anche studiando l'esatto opposto, cioè ciò che propone Riane Heisler nel suo Il piacere sacro, ovvero sia l'arrivare all'apertura completa della spiritualità, della corona, attraverso i sensi. Ecco, Edith invece, pardon, Simone, non tollerava neanche di essere toccata, aborriva completamente qualunque tipo di relazione che non fosse strettamente intellettuale, e infatti si sentì attratta anche dalla castità e a un certo punto la scelse, cioè non ebbe mai, che si sappia, rapporti con uomini, con ragazzi, fatto salvo così un innamoramento adolescenziale, che però la disturbò perché lei stessa, osservandosi, si rese conto che perdeva il controllo, che aveva la sensazione di perdere quasi dignità, no? Quasi di perdere questa sua regalità dovuta alla sua mente brillante, che la metteva sempre un gradino sopra le altre, sopra gli altri. Quindi si sottrasse a questo tipo di attrazione, diciamo, dei sensi, e optò invece per la castità per tutta la vita, per tutta la sua breve vita, perché morì giovanissima, appunto, a 34 anni. Per lei lo sfruttamento era privazione del pensiero, e che lei definisce consumismo operaio, cioè far lavorare le persone fino a privarle della forza, dell'energia, della motivazione a ricercare una propria forma di pensiero che non fosse indotta dal datore di lavoro piuttosto che dal regime. Quindi essere private o privati della dignità e divenire docili di fronte al potere, secondo lei, porta a un punto zero, che diventa portale però per lei verso un'altra realtà. Quindi la deprivazione del pensiero e la deprivazione della dignità, che porta a una docilità, a una mancanza di reazione, ecco, nei confronti degli stimoli esterni dell'ingiustizia, è ciò che secondo lei porta rappresenta la libertà totale, no? Quando si parlava di uscita dalla dualità, ossia attraversare il portale verso un'altra realtà più sottile, ecco, secondo lei ci si arriva attraverso la docilità che si pratica una volta che si è privati della dignità, cioè che non si ha più niente da proteggere, no? Che si diviene proprio come esseri vegetali. Ammesso che gli esseri vegetali non abbiano un pensiero, il che è tutto da dimostrare. Le sue qualità, ciò su cui lei si basava molto, basava le sue giornate, che erano rigorosissime, erano la puntualità, la costanza, il rigore, appunto, cioè non si concedeva mai una trasgressione rispetto a ciò che si era imposta, e la responsabilità. Lei si sentiva responsabile delle sue scelte, dei suoi studi, della condivisione che faceva del suo lavoro, e responsabile delle sofferenze anche del mondo. E è completamente dimentica del suo corpo e delle sue necessità. Questo a proposito della questione dei sensi, no? Lei si dimenticava del suo corpo, ma questo non le pesava, le veniva spontaneo e naturale, come le veniva spontaneo mangiare poco o nulla. Quindi è proprio un atteggiamento molto molto simile a quello di Edith, che comincia con la rinuncia al cibo per arrivare poi alla rinuncia al corpo, alla rinuncia all'ego e alla personalità. E lei si identifica completamente con l'altro, quindi la sublimazione dell'empatia. La strada verso l'unità e l'uscita dalla dualità, secondo lei, così come secondo Edith, è l'empatia, ovvero diventare una con l'altra persona, attraverso una intima condivisione delle emozioni, però non dei pensieri, è proprio delle emozioni. Quindi, nonostante la sua rigidità, nonostante le sue scelte così apparentemente fredde, era una persona veramente in grado di sperimentare delle passioni, delle emozioni fortissime che la portavano a rinunciare a mangiare per la sofferenza di vedere altre persone fare la fame. Lei sosteneva, appunto, che è l'esperienza quella che conta, perciò lasciò l'università e andò a lavorare in fabbrica e poi nei campi, perché senza esperienza non c'è conoscenza. Lei non interpreta, sosteneva che si limitava a osservare e a descrivere ciò che vedeva. Ma il corpo Non ce la fece a sostenerla, non ce la faceva perché era troppo debole, troppo gracile, troppo magra, troppo denutrita, dormiva al freddo, senza materasso e quindi continuava a farsi male, era maldestra, spesso aveva mal di testa, è denutrita, quindi questa sua grande passione, questo suo grande sforzo di voler conoscere e di voler studiare e approfondire non viene sostenuto dal corpo perché lei si priva troppo. E sappiamo che ci sono state altre mistiche che hanno scelto la strada del digiuno, la via del digiuno, la via del consegnarsi alla croce, il consegnare il corpo per espiare i peccati dell'umanità, ma erano donne che per lo più vivevano a letto, come Santa Teresa Neumann, per esempio, o altre donne che non lavoravano, non andavano sicuramente in fabbrica in catena di montaggio. E quindi è molto più facile così poter essere mistiche e digiunare quando si sta sdraiate, no? Come faceva il Mahatma che quando faceva i suoi digiuni stava sdraiato e non andava, non teneva le sue conferenze, le sue preghiere, stava semplicemente sdraiato. Allora sì, è facile, ma se una pretende di digiunare e in più anche di andare magari a lavorare nei campi o in fabbrica, la cosa diventa veramente difficile perché anche il corpo ha i suoi bisogni. A 28 anni ad Assisi in Santa Maria degli Angeli riceve una specie di iniziazione, ma spontanea, non mediata da nessun guru, da nessuna maestra o maestro spirituale. È un'esperienza mistica e trascendente diretta che lei riceve in quel luogo. E questo le aprì la strada del cristianesimo. Come Edith fu ispirata da Teresa de Avila, Simone fu ispirata da Francesco d'Assisi, che se, insomma, chi conosce la sua vita sa che anche lui fece una scelta del genere, rinunciò alle ricchezze, lui era di famiglia ricca, rinunciò alle ricchezze, rinunciò a qualsiasi forma di possesso, andava a chiedere l'elemosina, mangiava quello che gli veniva offerto in elemosina, non si vestiva, usava andare scalzo anche d'inverno, questa delle scarpe, di togliersi le scarpe è una cosa abbastanza comune in chi sceglie di rinunciare a sé. Evidentemente, a livello inconscio, così oserei dire a livello spirituale, l'assenza della calza ci fa sentire più vicini alla madre terra, quindi fa sì che possiamo anche assumere in qualche modo l'energia della terra per sostentarci. Ecco. Ovviamente vi renderete conto che sia Edith che Simone sono proprio sulla linea di confine molto sottile tra la rinuncia a sé e il masochismo vero e proprio. Ma è l'empatia quella che le caratterizza entrambe, uno dei legami che le uniscono profondamente, prendere su di sé i mali del mondo, la figura proprio dell'agnello sacrificale. Ecco, la domanda è perché donne così intelligenti, così straordinariamente dotate, colte, brillanti, si buttano sulla strada del sacrificio fino al martirio? Questa è una buona domanda da porre a noi stesse, sicuramente volendo poi fare il parallelo con lo studio di Il piacere sacro di Riane Heisler, di cui tra poco verrà data lettura anche la lettura integrale per il nostro canale da parte di Giorgia. La scelta di Simone fu quella di sperimentare tutto, qualunque tipo di vita, in campagna, in fabbrica, all'università, andò a fare la guerra di Spagna, poi si trasferì a Londra, anche lì fu in contatto sempre con intellettuali estremi, così come lei, e di non legarsi a nulla, però, ossia di avere relazioni ma che non legano. Lei aveva orrore non soltanto del contatto fisico, ma anche di qualsiasi forma di relazione affettiva. Non voleva, voleva essere totalmente libera. In questo ci riuscì, effettivamente, riuscì ad essere libera completamente dai bisogni del corpo, dai bisogni sociali, riuscì a vivere completamente della sua visione mistica, del suo spirito e del suo bisogno di, consegnarsi completamente all'altro e all'altra. La sua esperienza, però, nonostante, così profonda e così complessa, rimane incompiuta perché morì giovanissima, a differenza di quella di Edith, che invece riuscì ad arrivare alla sublimazione del suo cammino, in quanto la camera gas lei la considerò un po' come una sorta passaggio della soglia, ossia un rito della soglia, l'uscire in qualche modo dal piano di esistenza attraverso il gas, attraverso una così una distruzione del proprio sé. Quindi Edith visse il momento di entrare in camera gas come un'iniziazione e quindi come una conclusione di tutto il suo, diciamo, di tutta la sua ricerca e di tutta la sua visione. E Simone non arrivò a questo, morì prima. Fu semplicemente privata di un corpo al quale lei non dava importanza e che considerava solamente un mezzo per conoscere e fare esperienza, ma del quale però non ebbe abbastanza cura perché il corpo non la supportò tanto da permetterle di completare il suo lavoro, ammesso che lei avesse in mente di completare un lavoro perché probabilmente era talmente distaccata anche da qualunque forma, anche da qualunque obiettivo, che semplicemente si limitò a lasciarsi vivere e a prestare la sua opera finché il corpo la sostenne. La mia impressione è che non aveva neanche un obiettivo, ossia lei impiegava il suo tempo al meglio, il tempo che le era dato, ma senza uno scopo preciso, semplicemente quello di trasmettere quello che vedeva, di registrare quello che vedeva. Simone non fu una religiosa, anche se usò il distacco come via per la trascendenza e la rinuncia a sé come via per la trascendenza, esattamente come Edith, ma senza abbracciare nessuna forma di religione, non si legò mai a nulla, a nessuno, né di fisico né di spirituale. Il suo misticismo era il risultato dell'attraversare le esperienze senza identificarsene. Ecco. Anche Simone fuggì con la sua famiglia inizialmente a causa della persecuzione nazista, prima a Marsiglia, poi a New York, ma poi lei volle tornare in Europa perché volle unirsi alla resistenza. Scappare non era per lei. E collaborò addirittura alla stesura dei punti programmatici per una Costituzione democratica post bellica, cioè pensate così giovane veramente e con le idee così chiare, una Costituzione democratica, quindi ovviamente salta subito, viene subito in mente Rosa Luxemburg, perché infatti anche Simone Weil criticò il colonialismo, lo studiò, svelò l'analogia pericolosa tra il potere dominatore europeo su tutte le terre, sia asiatiche che africane, sia americane, e questo bisogno di accaparramento e di sterminio che invadeva tutte le nazioni d'Europa, che era come fossero impazzite, dovevano appropriarsi di altre terre, no? E la sua analisi assomiglia moltissimo a quella di Rosa Luxemburg, ovviamente identificando il colonialismo come una forma di estremo sfruttamento e nonostante il suo tra virgolette populismo, perché lei fu sindacalista, lavorò in fabbrica, fu sempre dalla parte delle masse, delle persone povere, ma non si sentì in sintonia con il marxismo, esattamente come Rosa Luxemburg e tantomeno alla struttura partitica, ossia come Rosa, Simone sosteneva che il partito non può essere quello che dirige o che affossa o che muove il popolo, ma deve essere semmai il contrario. Il partito semmai deve essere a servizio, ma quello che si deve muovere è il popolo. E anche lei aborriva la violenza, chiaramente, e cercò di proporre un uso del coraggio alternativo a quello della violenza. Per esempio, aveva in progetto la formazione di un corpo di infermiere in prima linea, che si impiegassero in prima linea, e questo ce la fa collegare a Florence Nightingale, ossia alle esperienze di tante donne, di tante grandissime antenate che sono andate come Croce Rossine e che hanno avuto la vita stravolta da questa esperienza. Morì in Inghilterra in sanatorio e solo dopo la sua morte venne alla luce la incredibile produzione, la ricchezza della sua produzione letteraria, saggistica, della sua visione mistica, che fu tutta raccolta e pubblicata a cura del filosofo francese Albert Camus. E cito per concludere dall'Enciclopedia delle Donne un pezzetto dell'articolo di Alessandra Cislaghi, fatto molto bene, dove dice: elaborò un'intensa riflessione spirituale, la sua conoscenza soprannaturale compiuta attraverso la disciplina dell'attenzione e del distacco. E qui arriviamo all'uscita dalla dualità, no? Alla rinuncia a sé come uscita dalla dualità, come metodo per uscire dalla dualità. E intuì, o aveva intuito, sostiene Alessandra Cislaghi, la trasformazione dell'energia universale dal vuoto dell'io alla pienezza della realtà. Quindi il distacco dall'io come ego, come qualcosa di vuoto, di inutile, per arrivare ad una realtà omnicomprensiva, empatica, fatta di tutte le anime senzienti, che è vera pienezza e che è veramente divina. Ecco, io credo di avervi dato tutte le informazioni che mi stavano a cuore. Concludo questa classe ricordando i punti di contatto tra Edith, figlia di Auguste, e Simone, figlia di Selma, che erano entrambe ebree. Entrambe si convertirono al cristianesimo mistico, entrambe presero su di sé il sacrificio per l'umanità, entrambe sperimentarono il ritiro dal mondo, il distacco dai sensi e dall'importanza personale come via per la trascendenza, ed entrambe morirono giovani, anche se Simone molto più giovane di Edith, entrambe in agosto, la prima Edith nel 42 e Simone nel 43. Ecco, concludendo quindi, l'uscita dalla dualità per Edith e Simone è il distacco dal corpo, il distacco dai sensi, il distacco dall'importanza personale, tuffandosi completamente nella via dello spirito.